La discordia, da Favole, Dicen de la Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. La dea discordia si tirò lo sdegno dei numi tutti per cagion di un pomo. Discacciata dal ciel, scese nel regno dell'animal che prende il nome d'uomo, dove fu tosto a braccia aperte accolta in un con suo fratel che sì che no, e con suo padre roba data e tolta. Scelse il nostro emisfer per sua dimora, che l'altro giù agli antipodi è così rozzo ancora, che la gente vi nasce e si marita senza imbrogli di preti e di notari, che son della discordia i segretari. La fama messaggera a lei si presta per mandarla ove il caso la richiede, e la discordia lesta, destando incendio dove son scintille, va per città, per ville, ed alla pace rapida precede. Al fin la fama, che si sente stanca di cercare questa pazza irrequieta, che va di qua e di là senza una meta, per poterla trovare all'occorrenza, le consigliò di eleggere in qualche luogo stabil residenza, dove potrebbe sulla tarda notte mandarla ad alloggiare chi volesse un momento respirare. In caso di Meneo, vale a dire di gente maritata, non v'era anche ostri femminili allora, fu discordia per sorte ricovrata e vi rimane ancora. Fine della favola, La discordia. Questa registrazione è di dominio pubblico.